Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati con l'anno nuovo a questo appuntamento con i figli di Enea, storie di nuovi italiani, questa formula che abbiamo usato per raccontare le storie degli italiani che per qualche ragione hanno radici altrove e che contribuiscono a cambiare la nostra Italia. 2010 si è aperto con il successo di un film molto anche così discusso, che è Tolo Tolo di Checco Zalone, che abbiamo visto, molti di noi hanno visto al cinema, altri magari andranno a vederlo. E allora per parlarne abbiamo con noi un giovane attore nato a Roma che vanta una carriera ben avviata sia al cinema che in televisione, che ha partecipato al film e anche al video musicale che promuove il nuovo film. Lui è Maurizio Bousso, che è con noi in collegamento. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito. Immigrato, il video musicale che ha funzionato un po' in queste settimane da trailer per il film, ti vede proprio protagonista. Allora, prima di iniziare la chiacchierata con te, sentiamolo questa canzone di Checco Zalone che introduce questo film Tolo Tolo. All'uscita del supermercato ti ho incontrato. Carello, lo faccio io. Ma perché? Non ce la faccio io. È fermo. Al distributore di benzina. Metto io. Metto io. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro. Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza. E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici: è già 2 euro, papà Nino. Maurizio, allora tu sei il protagonista con Checco di questo video che ha tratto un po' in inganno chi poi è andato al cinema, perché in effetti in realtà nel film le critiche, la satira va più nella direzione dell'italiano medio, o no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Il trailer è stato anche un po' fuorviante sicuramente, perché molti sono stati forse sì tratti un po' in inganno. Era un po' provocatorio, forse anche funzionato. Perché poi si va al cinema con delle aspettative, si viene spiazzati. Io ho visto il film e devo dire si esce con un senso anche di divertimento, di commozione, ma anche di disagio. E questo tutto sommato nelle opere cinematografiche fa bene, no? Assolutamente sì, perché secondo me per la prima volta forse viene messo in scena un tema così, così delicato come appunto l'immigrazione. È un film che, ripeto, è una commedia secondo me brillante, e non lo dico perché insomma ci ho lavorato, ma perché è veramente un bellissimo film, e ho visto gente uscire dalla sala commossa, gente che comunque sia è uscita divertita, perché poi questo film riesce a far commuovere, a far ridere. E io sinceramente io stesso non mi aspettavo di vedere un film così, perché poi quando poi uno recita, insomma, poi le scene sono tutte separate, poi vedere tutto montato e vedere quel risultato lì, insomma, sono molto molto orgoglioso del lavoro che insomma tutti gli attori hanno fatto, e un grande elogio a Luca Medici, che è Checco Zalone, perché ripeto non era da tutti mettere in scena in commedia anche un tema così delicato. Un tema così delicato, esatto, sì, perché sembra un po' che il tema immigrazione sia un argomento tabù, però oppure viene trattato al cinema, è stato trattato di recente con toni drammatici. Esatto, con toni drammatici. Forse Checco è l'unico che veramente poteva fare una commedia del genere. Mi sono affidato completamente a lui, al suo talento, e ci siamo trovati benissimo, non con poche difficoltà, perché comunque sia c'era del timore prima di questo video da parte mia sicuramente, perché non... Ecco, tu sei diciamo italiano di origini africane, nel senso che i tuoi genitori sono africani. Quando ti è stato proposto questo testo, questo video immigrato, no? Che è un testo proprio provocatorio, che spalanca la strada a tutti i luoghi comuni sugli italiani e sugli immigrati, tu cosa hai pensato quando ti è stato proposto questo testo? La prima cosa che ho pensato è stata, oh mio Dio, lo stiamo facendo veramente? Perché, ripeto, è un testo molto forte. La prima volta eravamo a Malta, stavamo girando, Luca mi avvicina e mi dice, Maurizio, senti, avevo in mente questa cosa qui, però non so se ti va di farla. E insomma, mi ha proposto di fare questa canzone. Quindi tu facevi già parte del cast del film? Sì, ci tengo a specificarlo che il trailer è venuto e l'abbiamo girato dopo, è stato girato più o meno a fine novembre, quindi il film era già concluso. E Luca, come ha fatto anche in Covado, cioè non, ci tiene a non far vedere immagini del film, nel senso che è la stessa operazione che ha fatto in Covado, in Covado c'erano tre clip, questa volta ha deciso di fare questa canzone. Io ripeto, ero molto preoccupato, però poi mi sono lasciato andare, ripeto, io ho un papà che viene dal Senegal e una mamma che viene dall'Etiopia, quindi sono africani. Loro l'hanno visto questo video, ovviamente, che cosa hanno detto? Visto. Loro, innanzitutto, essendo miei genitori, la prima cosa che hanno fatto è stata dimostrarmi il loro affetto, la loro felicità, il loro orgoglio, perché comunque sia, non è da tutti recitare con un attore come Checco Zalone, quindi in primis erano felicissimi per me e soprattutto hanno riso parecchio. Sentiti offesi? No, sono sincero, ve lo direi, io è una cosa di cui sono molto sorpreso, io mi aspettavo tante critiche da ragazzi magari immigrati, afrodiscendenti, seconde generazioni, ma molti, cioè, in realtà la maggior parte ha capito il video ed era molto ironico. È chiaro che era, ripeto, un'iperbole di tutti quelli che sono gli stereotipi dell'immigrato oggi in Italia. Cioè, alla fine l'immigrato oggi in Italia viene rappresentato così, come nel video. È anche la rappresentazione delle paure degli italiani, dei timori degli italiani. Soprattutto a me l'idea che mi piace di più del video, questa cosa l'ho detta anche a lui, lui che dopo una giornata magari di lavoro arriva, si butta sul letto dopo magari aver ascoltato le solite notizie ai telegiornali, si ferma un secondo e nella sua testa passano quelle immagini. A me sembrava tutto molto vero e a me, ripeto, quell'idea è piaciuta tantissimo. Immigrato, sembra proprio che ti sei integrato. Immigrato, favorisci pure l'altro lato. Immigrato, ora dimmi perché mi hai puntato. Potevi andare dal mio vicino pakistano o a quel rumeno in subaffitto al terzo piano, ma hai scelto me, il mio teretano. Dimmi perché, perché, perché, perché, perché, perché. Prima l'italiano. Cioè, l'ironia era palese, poi è chiaro che un ristretto gruppo di persone poi ha criticato il video e poi ne è uscita, poi è stata, sì, è scaturita quella polemica, che cosa non è razzista, non razzista, il video è razzista, non razzista, ma inizialmente i primi commenti a caldo, erano veramente chiari e palesi. Io ho sentito anche poi commenti contrari da italiani e anche da afrodiscendenti, quindi italiani di origine africana. Noi dobbiamo fermarci un attimo perché abbiamo una pausa, ma torniamo con te, Maurizio, tra pochissimo. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. I figli di Enea. Siamo stasera con Maurizio Bousso, che è uno degli interpreti del film Tolo Tolo di Checco Zalone, in questi giorni proprio al cinema. È un giovane attore di Roma con origini africane per parte di mamma e papà. Nel film invece fa la parte di un giovane immigrato. Maurizio, stavamo dicendo di questo video, ma vorrei ampliare un po' il film. Come è andato il provino? Perché ti hanno scelto? Hai studiato al Teatro Stabile di Genova, quindi insomma, dicevamo, una formazione solida, e Zalone ha avuto per te anche parole di elogio. Come è andato il provino? Ti aspettavi di dover fare questa parte e hai anche paura di essere un po' incasellato in questa parte di immigrato? Allora, questa grazie, ti ringrazio per la domanda, è una domanda molto molto interessante. Allora, procediamo con ordine. Il provino è partito l'estate del 2018, avevo fatto il provino per il protagonista. Poi per mesi non ho più risentito nessuno e incredibilmente poi ero a marzo, ho un fratello che vive e lavora a New York, ero in vacanza e mi chiama la mia agente chiedendomi disponibilità per andare a raggiungere il resto della truppa in Marocco, perché Checco mi voleva per un altro ruolo, che poi è stato appunto il giovane immigrato che lui incontra durante il viaggio e con cui poi fa parte del viaggio. Ci sono alcune scene che sono state molto criticate, che in effetti per una persona attenta a questi temi rischiano di essere un po' sensibili, creano un po' di disagio. Parlo della scena delle bombe al mercato e della scena del naufragio. Sono sincero, è una scena che secondo me non insulta e non dovrebbe offendere, anche se lo capisco, non ci trovo nulla di offensivo, perché è comunque delicata, cioè è una scena di vita. Allora, di io sono d'accordo e anzi mi viene da paragonarla con la Vita è bella di Benigni, cioè un registro ho letto. Comico e delicato per trattare temi pesanti. Non a tutti ovviamente è piaciuta, trovo molto interessante e vorrei affrontarlo con te, non spoileriamo troppo, però lo spiazzamento che avviene anche quando si vede alcuni protagonisti migranti che hanno un'immagine positiva all'inizio del film, e poi in particolare uno di loro a un certo punto fa una cosa per cui il suo personaggio cambia totalmente, non è più un immigrato buono ma è un immigrato che compie un gesto di sopravvivenza, e anche questo mi sembra interessante, cioè diciamo che Checco Zalone fa il contropelo a tutti i giornalisti, sinistra, sì, destra, italiani, stranieri. Io mi ricordo ancora quella scena, quel momento, appunto, non facciamo spoiler perché sennò poi la produzione mi riprende, però sì, assolutamente, io mi ricordo il giorno che abbiamo girato quella scena, io ho avuto il privilegio di poterla leggere, la sceneggiatura, e mi trovavo sul set anche se non ero in scena in quel giorno lì. Fu una scena, sì, avevo capito che era una scena toccante e importante del film, il gesto che lui fa, appunto, non si può dire troppo, però la cosa bella di questa scena, di questo film in generale, appunto, è che, come dici tu, Checco Zalone non risparmia nessuno. Siamo, alla fine lui non fa differenze, siamo tutti esseri umani e nel bene o nel male ognuno di noi compie delle scelte. E poi, ripeto, possiamo anche giudicarle, però come dire... ripeto, lui non risparmia nessuno, non fa differenze, e forse questa è la forza di questo film. È caustico e comico su tutti i fronti e non risparmia nessuno, come tu dicevi. Allora, veniamo a te, Maurizio. Tu, dicevamo, sei di Roma, sei cresciuto nel quartiere di Primavalle e i tuoi genitori, come raccontavi, sono africani, senegalesi da parte di papà e etiopi, ho capito bene, o eritrei? Mamma etiope, sì. Mamma etiope. Tu sei cresciuto a Roma, com'è stato crescere a Roma, figlio di genitori di immigrati? La nostra trasmissione parla di questo, degli italiani che hanno le radici altrove, e qualche volta questo può essere uno svantaggio, un vantaggio. Assolutamente. Io sono sincero, io ripeto, quando ho avuto pochi episodi spiacevoli o appunto che mi mettessero un po' a disagio, però sono capitati. Io ho vissuto sempre bene il mio essere africano, afrodiscendente, e sono stato in Africa, quindi ho conosciuto anche quella che è la cultura dei miei genitori, però io a Roma ho sempre vissuto in maniera tranquillissima, soprattutto quando io credo che quando si è piccoli credo sia molto più semplice, anche se poi è come se a una certa età iniziasse a scattare qualcosa. E questo qualcosa poi spesso e volentieri non è un qualcosa di così piacevole, perché ripeto, da piccolo non fai tanto caso a certi sguardi o a certe situazioni. Io crescendo ho capito che effettivamente qualcosa di diverso c'è, e non è inutile negarlo. Ci racconti un momento in cui questo sguardo hai visto che era diverso? Beh, uno sguardo diverso, guarda, a me mi è successo una volta in particolare, quando ero un po' più giovane, no? E insomma, ero con un mio amico e si avvicina una persona e gli dice: ehi, ma che ci fai con lui? Esci anche con i... E non voglio ripetere tutto, però era una parola abbastanza, vabbè, si può dire forse, ma esci anche con i negri? Questo è stato forse il momento in cui ho iniziato a dire: ah, ok, quindi questa mia caratteristica, come dire, è così decisiva, è così importante, cioè è così netta. Perché io all'inizio uno fa finta di niente, sì, uno è nero, uno è bianco, però poi ti scontri con la realtà. Ti ripeto, a me non piace neanche troppo raccontarlo, perché io poi non gli do neanche troppo peso, come dire, io poi la mia vita la vivo in maniera assolutamente tranquilla, però sono episodi che comunque ti segnano, perché poi li ricordi. Potevi andare dal mio vicino pakistano o a quel rumeno in subaffitto al terzo piano, ma hai scelto me, il mio deretano. Dimmi perché, perché, perché, perché, perché, perché. Prima l'italiano. Invece la scelta di fare l'attore, come è stata vissuta in famiglia? È un argomento molto, molto, molto complesso, proverò a essere breve e conciso. I miei genitori sono venuti in Italia appunto per una condizione migliore di vita, venivano entrambi da famiglie molto, molto umili, sono venuti in Italia e hanno provato a darci a garantirci un futuro migliore, tra virgolette. È chiaro che, come per tanti genitori in realtà anche qui in Italia, il mestiere dell'attore, come tanti mestieri oggi, mestieri artistici, non ti garantiscono spesso e volentieri un futuro così roseo, perché comunque c'è difficoltà a lavorare, poi l'arte qui in Italia sicuramente non è sviluppata come potrebbe essere, comunque non funziona come negli altri paesi, ci sono molte meno garanzie. Però ripeto, questo succede anche per lavori non artistici, è proprio una condizione ora politica, sociale, economica abbastanza complicata, e sicuramente un genitore africano, e almeno io così la vedo, che magari si è sbattuto e ha avuto tantissime difficoltà nell'integrarsi in questo paese, e magari vorrebbe che il figlio diventasse, c'è questa cosa che spesso io mi confronto anche con ragazzi sempre comunque seconde generazioni o afrodiscendenti, che i nostri genitori vorrebbero sempre vedere dei medici. I miei genitori, ti ripeto, l'hanno presa, inizialmente erano scettici, perché ripeto, in realtà non sapevano proprio di cosa stessi parlando, perché non sono mai stati così vicini, diciamo, al teatro, al cinema. I miei genitori lavoravano e facevano altri lavori. Di posso chiederti che lavoro facevano? Guarda, mio papà insegnava, prima di venire qui in Italia, lui faceva l'insegnante di arabo, mia madre faceva la domestica, cioè quindi comunque. E qui in Italia tuo padre cosa è riuscito a fare come lavoro? Lui è un commerciante, mia madre continua a fare la domestica, e quindi lavori molto umili. Dai. Poi la sera la sorpresa a casa al mio ritorno, mi ritrovo senza permesso nel soggiorno. Amico mio! Ma mia moglie non è spaventata, anzi sembra molto rilassata. E ritrovo sguardo malandrino che faceva quando quella roba lì la faceva. Loro volevano vedermi sicuramente magari come dottore o come medico, con una prospettiva più sicura. Una prospettiva più, assolutamente più sicura. Però, e adesso sono orgogliosi, immagino. Per loro, poi loro non sanno poi cosa c'è, tantissimo cosa c'è dietro. Però io, la scelta di andare a Genova, avevano già iniziato a capire che facevo sul serio. Poi ora la cosa che mi diverte molto è vedere gli amici di mio padre che comunque mandano messaggi, video, senza, mio padre, poi i miei genitori non hanno dato troppo peso, secondo me, anche al video, alle critiche. Loro però vedere un figlio magari in copertina, su mio padre che mi tornava a casa con i settimanali, con i frame del video, alla fine l'ho reso molto orgoglioso, e questa è la cosa più che a me fa stare meglio, cioè mi fa veramente stare bene vedere, magari anche durerà poco, magari non lo so, magari durerà tra un mese, tra due settimane, tre settimane, non se ne parlerà più e tornerò a fare una vita tranquillissima come già sto continuando a fare. Però diciamo, ecco, la ribalta, politici che parlano di questo video di cui tu sei il protagonista, beh, per mio padre sinceramente io credo, ma anche per mia mamma, per i miei genitori, credo sia stata una bella soddisfazione, una bella rivincita, se possiamo, anche su se stessi, cioè nel senso, scusami, forse è una vittoria mia sui loro, tra virgolette, pregiudizi, ma più che pregiudizi, sulle loro preoccupazioni. Ripeto, non è che con questo film poi io starò tranquillo per tutta la vita, anzi tutt'altro. Vabbè, sei molto giovane, quindi insomma ti auguriamo giovane, il meglio, ti auguriamo il meglio. Sono pronto alle difficoltà che insomma tanti miei coetanei che dovranno appunto affrontare. Grazie Maurizio per essere stato con noi questa sera, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia e soprattutto a tutti voi per l'ascolto di questa puntata. Vi aspetto sabato prossimo sempre alle 21 su Radio 24. Buona serata, buona domenica da Valentina Furlanetto. Ciao.